Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 per Radio Big World. Prima vera puntata di cronaca e racconto sulle NBA Finals in corso, sul momento decisivo e definitivo del campionato che stiamo raccontando dall'inizio. Allora, come tutti sappiamo, la finale tra i Cleveland Cavaliers di uno stratosferico LeBron James ed i campioni in carica dei Golden State Warriors, forti del vantaggio campo, con l'iniziale defezione di Andre Iguodala, ma il resto del roster comunque al completo, evidentemente in uno stato di forma invidiabile o quantomeno sufficiente per avviare la serie in vantaggio. Sì, perché a dispetto di chi dava per scontati i giochi, prevedendo un dominio assoluto della banda guidata da Steve Kerr, gara 1 all'Oracle Arena è stata sorprendentemente bella e combattuta, con tanto di tempi supplementari e quintali di materiale sul quale discutere. Una sfida destinata a passare alla storia per intensità fin dai primi minuti, e non poteva essere altrimenti considerando che queste due squadre si ritrovavano a giocarsi il titolo per il quarto anno consecutivo in una vera e propria rivalità consolidata e pronta a rinnovarsi per un probabile ultimo capitolo. Finisce 124-114 per la squadra di casa dopo i 5 minuti addizionali dovuti alla parità effettiva in conclusione di quarto periodo, con una prova irreale di LeBron James, capace se possibile di alzare ulteriormente l'asticella del livello massimo verso il quale tendere in questa postseason, con 51 punti, 19 su 32 dal campo, 8 assist ed 8 rimbalzi. Dalle sue mani, contando realizzazione e passaggi decisivi, passano 70 punti di squadra, ad un passo dall'upset, resistendo al proverbiale terzo quarto degli Warriors e giocandosi il proprio destino negli ultimi possessi dei regolamentari. Poi, per una serie di sfortunati eventi che andremo rapidamente ad analizzare, ai supplementari la forza di Golden State emerge violentemente, favorita da un morale evidentemente sotto i tacchi per gli avversari. Nei 5 minuti addizionali finisce 17-7 per la squadra di casa, che si porta così in vantaggio nella serie. Eppure sembrava mettersi tutto per il meglio a poche decine di secondi dalla fine dei regolamentari, con uno sfondamento preso e fischiato da LeBron James sul più 2 su una penetrazione di un Kevin Durant più spento e spreciso del solito, comunque autore di 26 punti. Gli arbitri decidono di avvalersi però dell'instant replay apparentemente per valutare quello che appare già palese, cioè che LeBron sia fuori o meno il semicerchio di sottocanestro, all'interno del quale lo sfondamento non viene contemplato. LeBron è chiaramente fuori, eppure consapevole. Ma durante la revisione dell'azione gli arbitri optano per una conversione totale del fischio, regalando a Durant due tiri liberi e fischiando quindi fallo al re. Ora, a guardar bene l'azione, la modifica di sanzione appare sacrosanta, ma la polemica si snoda tutta sul fatto che, all'interno della revisione dell'instant replay, secondo i Cavs, ed in realtà secondo anche il regolamento, almeno in apparenza, l'unica modifica contemplabile poteva riguardare solo ed esclusivamente la posizione di James e non il senso del fischio in se stesso. Per farla brevissima, quindi, polemiche a non finire, non tanto in campo, ma in seguito nel post partita, dove Tyronn Lue e lo stesso James si dichiarano derubati di una vittoria, mentre i commentatori e gli osservatori si scannano, regolamenti alla mano, e gli arbitri riescono con piroette varie ad offrire spiegazioni ai limiti del convincente. Anche perché a seguito di questo fischio, che riporta la partita in parità, ad un canestro di LeBron in penetrazione risponde Stephen Curry, strepitoso da 29 punti e 5 triple tra l'altro, con una penetrazione con fallo che riporta i suoi sul più 1. In quello che appare l'ultimo possesso della gara, un raddoppiatissimo James riesce però a servire sotto canestro George Hill, che subisce il fallo di Klay Thompson e che può riportare in vantaggio i suoi con due tiri liberi. Tra l'altro George Hill è tiratore sulla soglia dell'80% dalla lunetta. Entriamo così nel momento decisivo, quello in cui Cleveland perde sostanzialmente la partita. Hill segna il primo e sbaglia con moltissime colpe il secondo, ma il rimbalzo viene conquistato da J.R. Smith, che con 4 secondi e 7 decimi sul cronometro si trova praticamente sotto canestro con il punteggio in parità. A questo punto però qualcosa va storto. JR potrebbe provare a diventare l'eroe segnando il canestro della vittoria, oppure cercando il fallo per guadagnarsi la lunetta. Si troverebbe in posizione e condizione favorevolissima per farlo, se non che davanti a Kevin Durant. Decide invece di uscire rapidamente dall'area, evitando contatti e correndo sostanzialmente in direzione opposta dal canestro di attacco, con James ed i compagni che si sbracciano ed il pubblico ammutolito. Suona la sirena e si va all'overtime, e tutto il mondo inizia inizia ad ipotizzare il motivo per cui la testa di Smith possa aver reagito in un modo tanto senza senso. Nel labiale catturato dalle telecamere in risposta ad un LeBron tra il rabbioso e l'arreso, JR sembra dire «pensavo che fossimo avanti» ed effettivamente il suo linguaggio del corpo lascia intendere per davvero che non conoscesse l'esatto risultato al momento, cercando di difendere l'apparente vittoria in un momento di quelli brutti, di quelli in cui non capisci le reazioni del mondo che ti sta intorno. Questa teoria è stata riproposta anche da Tanoglio in conferenza stampa ed appare la più probabile, anche se Smith inizialmente si è difeso dicendo che si aspettava che la panchina chiamasse un time out. Effettivamente in quel momento della gara restavano un time out a testa per squadra e soprattutto alla vista dello stato confusionale del suo giocatore, coach Tanoglio avrebbe potuto provare a metterci una pezza proprio chiamando un minuto di sospensione e provando a disegnare un gioco per tentare di vincere la gara con 2 secondi almeno sul cronometro. Del resto, come saprete, nell'NBA anche i giocatori possono chiamare time out dal campo durante il possesso. Quindi lo stesso JR avrebbe potuto farlo alla vista della non reazione della panchina al suo possesso recuperato. Ma comunque, se volete il mio parere, è la questione del time out non chiamato né contemplato sul rimbalzo in attacco che appare la più clamorosa sulla quale Cleveland perde la partita, e le colpe sono quindi da dividersi tra Hill, che comunque fallisce il libro del più uno, lo stesso Smith, e coach Tanoglio, che doveva avere la coscienza e la consapevolezza dei time out che gli rimanevano da chiamare. La gara finisce poi con Draymond Green a fare il bullo durante i supplementari e Tristan Thompson espulso in coda ad un overtime dove i Cavaliers non scendono praticamente in campo, letteralmente scioccati dall'essere andati così vicini all'impresa di portarsi in vantaggio nella serie, vanificando tra l'altro una delle più grandi performance nelle finali di sempre, come quella offerta da LeBron James. Passano giorni di polemiche e discussioni e si ritorna in campo per gara 2, importantissima per definire la direzione della serie. Sembra impossibile per tutti, a maggior ragione dopo la bruciante sconfitta maturata, che Cleveland possa offrire quel colpo di coda fondamentale per riportare la serie in Ohio in parità sull'1-1. Ma i Cavaliers scendono in campo apparentemente determinati a far bene nel primo quarto, con un George Hill che dimostrerà di aver superato lo shock dell'errore decisivo dalla lunetta in gara 1. LeBron si concentra notevolmente nell'inserire i compagni e chiuderà la sua sfida ad un rimbalzo dall'ennesima tripla doppia, con 13 assist e 29 punti. Delude ancora una volta J.R. Smith, mentre Tristan Thompson appare decisivo per mantenere Cleveland a contatto con i Warriors almeno in avvio. Purtroppo però per Tanoglio Golden State sfugge nel secondo periodo, complici un paio di chiamate un po' dubbie che scatenano la furia di James contro gli arbitri ed il nervosismo di squadra. Nel terzo periodo i Cavs dominano e rientrano, ma non riescono a diminuire il divario che li vede affossare decisamente entro la metà del quarto conclusivo, al termine del quale la sfida si fissa sul definitivo 122-103. Allora, parliamo di Golden State. Kerr propone in quintetto un giavalone McGee che appare fondamentale come finalizzatore in pick and roll ed anche intimidatore sotto canestro, chiudendo con 12 punti in 18 minuti. È ottima anche la prestazione di Sean Livingston dalla panchina, un uomo che quando vede Cleveland si accende e galoppa più del solito, capace di raggiungere la doppia cifra quota 10 in entrambe le prime due sfide della serie. Devastante la prestazione del trio Thompson, Curry e Durant, capaci di segnare sempre quando è fondamentale schiaffeggiare gli avversari, spengendo nei bollenti spiriti di rimonta. In questo Clay è un maestro di essenzialità e concretezza, per quanto giochi fisicamente acciaccato. Ne mette 20 con 3 triple, accompagnando la seconda prestazione consecutiva da 26 punti di Kevin Durant, stavolta però con un quasi perfetto 10 su 14 dal campo. Contro una squadra che tira con il 57% dal campo ed il 41% da 3, è praticamente impossibile sperare di portare a casa il risultato, oltretutto se si gioca in trasferta. Cleveland si arrende così sotto i colpi di uno Stephen Curry devastante, miglior giocatore delle prime due sfide della serie senza ombra di dubbio. In gara 2 sbaglia qualcosina di troppo nelle incursioni al ferro, o meglio lo difendono un tantino meglio, ma da dietro l'arco risulta devastante. E supera tra l'altro l'ennesimo record realizzando il maggior numero di triple di sempre in una singola sfida di finale. Sono 9 canestri da 3 punti per lui, compresi quelli che uccidono il match in avvio di ultima frazione, alcuni assolutamente incredibili. Cleveland spesso difende malissimo sul primo passo in penetrazione e non sempre gli aiuti e le rotazioni sono puntuali, tanto che in avvio di sfida sono tanti i canestri in penetrazione o scarico subiti. Tuttavia, finché si tratta di quelli, LeBron e compagni riescono a tener viva la speranza di impatto, così come in avvio di terzo periodo. È invece quando gli avversari avviano movimenti vertiginosi di palla ed improbabili tiri da dietro l'arco, che trovano tra l'altro sufficientemente il fondo del canestro, che la questione diventa complessa, per non dire impossibile nel metterci le mani. si torna quindi in Ohio, o meglio si va in Ohio, sotto 2-0, con LeBron James e compagni di nuovo con le spalle al muro, consapevoli che in caso di sconfitta nella prima gara interna, i giochi sono sostanzialmente finiti. Come accadde lo scorso anno, tra l'altro. Quindi ci si aspetta una gara 3 combattuta e viva, a dispetto di una gara 2 molto meno cattiva agonisticamente del previsto, con Cleveland che si concentra più sulle proteste verso l'arbitraggio che nel render papper focaccia a chi, in conclusione della prima sfida e nei giorni che li distanziavano dalla seconda, non ha certo evitato sbeffeggiamenti ed ironie varie. Ma esattamente come è accaduto lo scorso anno, la terza partita, che dovrebbe essere quella del riscatto Cavaliers, si trasforma in un bagno di sangue, soprattutto grazie ad un Kevin Durant stellare. Per raccontarla è giusto partire dalle sue cifre: 17 su 23 dal campo con 6 triple su 9 tentativi, 43 punti in 43 minuti, 13 rimbalzi e 7 assist. Una prestazione del genere avviene in una serata dove né Curry né Thompson, entrambi un po' acciaccati all'apparenza, riescono ad incidere nell'arco della sfida. Per Stephen Curry c'è un clamoroso 3 su 16 dal campo, con 1 su 10 da 3, ma una tripla ed un canestro da sotto arrivano proprio nel finale in volata, e sono i punti che spaccano il morale dei Cavaliers, prima che Durant affossi direttamente la sfida con una tripla da 10 metri di fronte a tutta Cleveland e a tutto il mondo che lo sta osservando. Eppure Cleveland era partita meglio, segnando 29 punti in entrambi i quarti d'avvio e toccando anche doppie cifre di vantaggio. Il campanello di allarme si accende però in conclusione di secondo quarto, quando ci si rende conto che, seppur con una squadra apparentemente poco ispirata, il solo Durant riesce a portare i suoi appena sotto di 6 punti alla pausa lunga. Fino a quel momento avevano risposto ampiamente presente sia Kevin Love che un Rodney Hood rispolverato, che chiuderà la sfida con 15 punti dalla panchina, oltre al solito LeBron James. Il prescelto concluderà la gara con una tripla doppia, ma appare molto meno schiacciasassi di quello che potevamo prevedere, pur ammettendo che nessuno è capace di replicare 51 punti di gara 1 in ogni sfida. Probabilmente è stanco, probabilmente è acciaccato, forse è debilitato da un occhio che continua a tormentarlo quantomeno all'apparenza, segnato da una ditata presa da Draymond Green nella prima sfida. Ci saranno comunque 33 punti, 10 rimbalzi e 11 assist per lui, 20 punti e 13 rimbalzi anche per Kevin Love, ma non basteranno, anche perché ad un certo punto Love si esaurisce ed i Warriors rientrano prepotentemente in campo nel terzo periodo, portandosi subito in vantaggio grazie a 3 canestri di JaVale McGee. Cleveland non riesce a sfruttare una serata al tiro non eccellente per gli Warriors e non riesce a sfruttare l'opacità già citata dei due dei Big Three di Steve Kerr, non trovando soluzioni né alla serata di grazia di Durant né ad un gioco di squadra che comunque garantisce la doppia cifra in materia di punti a tutto il quintetto, con 10 dalla panchina di Jordan Bell ed 8 a testa per Iguodala e Livingston. Una prestazione matura, concreta, carica di personalità, a dimostrazione di un divario a vantaggio netto. La serie va quindi sul 3-0 ed anche se lo sweep appare improbabile per una serie di ragioni come lo scorso anno, una ad esempio è che la prossima gara sarà probabilmente l'ultima di James in maglia Cleveland alla Quick Loans Arena, si inizia a vedere scorrere i titoli di coda della stagione. Troppo forti Warriors, tanto che non è neanche immaginabile per una squadra come Cleveland riuscire laddove nessuno ha mai lontanamente pensato di arrivare, cioè rientrare da uno 0-3 in finale. Per molti di voi che ascolteranno questo podcast sabato mattina o domenica pomeriggio, forse le finali saranno già finite, o comunque già saprete se saranno destinate ad allungarsi un minimo o meno. Noi ne parleremo ancora nella puntata della prossima settimana di NBA Week, provando a raccontare le ultime gare della stagione, per le quali comunque vi rimando alla nostra pagina Facebook che si chiama appunto NBA Week, rispetto ad aggiornamenti vari. Ancora per poco, comunque potrete ascoltarci in streaming su Radio Big World tutti venerdì sera ed in podcast dal giorno dopo, ospiti anche del canale YouTube di Belli 13 tutti i sabati mattina e tutte le domeniche pomeriggio su Radio Valdarno ed in podcast nel loro sito. Grazie ancora per l'ascolto, ci risentiamo tra 7 giorni con NBA Week.